trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. E ci siamo, io come ultima trasmissione dell'anno penso di aver fatto il mio solito errore. Allora, qui in trasmissione siamo io e Rosina e adesso vi mandiamo anche la sigla, va bene? Se parte, eccola! Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte. Buonasera a tutte. Finalmente ci siamo. Finalmente ci siamo fatti riconoscere. Brava. Noi siamo il coordinamento lesbiche romane o quello che ne resta. Esatto. Allora, qui il caldo impazza, impera, la stanchezza incombe. Siamo decimate. Esatto. Infatti siamo le uniche due rappresentanti di un gruppo molto più ampio, ma che comunque sta stramazzando per la stanchezza. E noi avevamo cercato di fare come di costruire una finale, esatto, che avesse un senso compiuto, e poi alla fine ci siamo guardate dopo averla riletta dicendo abbiamo pensato, visto che tutte le donne che abbiamo sentito ci hanno chiesto se era possibile riascoltare l'ultima trasmissione della Renuna, abbiamo pensato, ma perché per una volta non fare questo favore a queste giovani fanciulle che con animo leggiadro ci chiedono di riascoltare una vecchia trasmissione, vecchia non tantissimo, vecchia no, di due settimane, no, però certo, insomma, però il tempo dai. Passa anche per le trasmissioni. Esatto, allora facciamo così, mandiamo la trasmissione di due settimane fa, che era molto molto interessante, quella nella quale avevamo fatto l'intervista a Stefania Multerini e a Nadia Pizzuti, che ci hanno parlato di Germaine Dulac. Noi però prima di andare, certo, potremmo magari anche dire che questa sera sarà la nostra ultima trasmissione per questo ciclo di Onda Rossa. Ritorneremo ovviamente a settembre più belle, più forti che prima. Oddio, io più belle anche, la vedo difficile. Io spero anche un po' più magre, ma bisogna sfatare pure questo falso mito che d'estate si dimagrisce, perché noi tendiamo sempre ad allargarci, perché ci piace occupare gli spazi, insinuarci. Visto che questa è una società che ce li toglie, quindi è così. Visto che la società ce li toglie, noi ce li guadagniamo. Comunque il mio consiglio è non smettete di fumare durante l'estate, perché diventate un capodoglio spiaggiato come la sottoscritta. Ad ogni modo, siccome appunto questa è la nostra ultima trasmissione per questo ciclo, noi vi salutiamo calorosamente, anche in maniera accaldata, considerata la temperatura, e vi diamo appuntamento qui in radio per settembre, non sappiamo ancora quando ricomincerà il nostro calendario, sempre il martedì, però intanto io già comincerei a dirvi che dopo il grande successo del Kesbile dopo Pride, esatto, che abbiamo fatto venerdì scorso, sabato scorso al Buon Pastore, il CLR invece riaprirà le sue attività sempre alla Casa Internazionale delle Donne il 22 di settembre. Quindi faremo una grande festa in giardino con una cena di autofinanziamento per il Centro Femminista Separatista e avremo come nostra gradita ospite una cantautrice che chi ci segue già conosce, Luciana, e quindi saremo molto liete di avervi copiose, e come si suol dire copione, con noi quella sera in giardino, tanto ovviamente avremo modo di riparlarne anche attraverso i nostri potentissimi canali mail, ma certo, ma a parte tecnologici. Questa cosa io la devo dire, perché sarà un segno dell'avanzamento dei tempi, non lo so, però non avrei, ma no, anzi, è che ci vogliamo mantenere giovani. È vero, facciamo croc la mattina, ma solo perché siamo croccanti. Esatto, perché ci stiamo spezzando con l'artrosi, diciamo. No, noi, allora, per chi tante volte per impegni pregressi avesse perso qualche nostra trasmissione, voglio dire che noi siamo presenti nel blog del martedì con un settore che gentilmente ci hanno messo a disposizione, nel quale potete trovare, diciamo, da 3-4 anni a questa parte tutte le nostre trasmissioni. Quindi potete andare lì, cercare lo spazio nella barra a destra che indica è una calamità, e quindi lì troverete tutte le nostre trasmissioni. Ma il segno dei tempi è anche un altro. Noi da poco abbiamo aperto un profilo che non è proprio egiziano, il mio profilo destro, un profilo su Facebook, e ci potete trovare contatti CLR o CLR contatti, non ricordo bene. Comunque, se digitate una di queste due cose, prima o poi ci trovate. Contatti CLR. Contatti CLR, bravo. Contatti CLR, perché me l'hai detto poc'anzi. Esatto, tu sai che contatti io non sono... CLR, tutto attaccato, perché sennò Facebook non ci diceva che era un soprannome. Quindi tu non sai che io non sono tecnologica, per cui ti posso, giusto il mio profilo, ti posso dare quello sinistro o quello destro. Il sinistro viene un pochino meglio. Però ecco, se volete appunto regalarci la vostra amicizia, mi dicono, esatto, che si dice così, sì, fatelo pure su contatti CLR. Io la mia amicizia purtroppo non ve la posso regalare, perché come tutto il mondo sa, io non sono su Facebook. Esatto. E quando mi dicono, ma potresti rivedere le persone che non vedi da 20 anni? E io dico sempre, aborigeno, se ci ho messo 20 anni per perdere a far perdere le mie tracce, ci sarà un motivo. Però questo non vale invece per il coordinamento lesbiche romane, che invece vi aspetta anche su Facebook, esatto, e su ogni altro canale. E che dici, facciamo a questo partire, punto noi veramente vi salutiamo, sì, vi auguriamo una buonissima estate. E poi magari, se ci avete voglia di raccontarcele, ci mandate dei resoconti, anche per magari permettere ad altre donne di usufruire della vacanza splendida che sicuramente avete fatto. Sì, diteci dove siete state in vacanza, diteci, tanto è il periodo del cazzeggio, diteci se avete rimorchiato, diteci se avete trovato un nuovo amore, se avete riscoperto un vecchio amore, se avete scoperto un vecchio amore con un plaid pietoso perché non vi piaceva più, oppure diteci se avete fatto qualcosa di interessante, qualche iniziativa politica, letto un bel libro, brava, noi ci servono voglia... anche recensioni di libri, quindi noi accettiamo tutto quello siamo che volete, aperte tutto. Come si dice, non dire così, non dire così, non dare adito a strane interpretazioni. È il caldo. Quindi il CLR stasera nella persona di Caterina e nella eccola persona qui. Di Rosina, eccola là, vi salutano anche le nostre compagne, e vi aspettiamo numerose nuovamente a settembre, e buone vacanze a tutte. Ok. Nadia Pizzuti e Stefania Volterini. Cherman du Lac. A voi. Buon ascolto. Buon ascolto. Abbiamo scherzato, adesso la andiamo a ricercare e poi ve la rifacciamo. Nel frattempo mandiamo un sottofondo musicale, perché, come dire, ci siamo persi la trasmissione per strada. Sarà anche un segno dei tempi che stiamo diventando così tecnologiche, però, come dice Rosina, la tecnologia ci ha abbandonate. Io non ho veramente parole, avrei solo parolacce, meglio non dirle, siamo in diretta, non le possiamo dire. E che dire, che dobbiamo dire, non possiamo dire niente altro che rinnovare. Si è fusa pure la trasmissione dal caldo che abbiamo portato per la replica. E quindi adesso mandiamo qualche canzone. Staremo insieme. Esatto, un po', però tu te lo ricordi il nostro cellulare, il numero del nostro cellulare? Cioè, se ci volete riempire di improperi, potete farlo, perché casualmente ci siamo finalmente portate anche il nostro cellulare. Allora, che è 339-853-6270, ve lo esatto. ripeto, 339-853-6270, se ci volete mandare dei messaggi per appunto rimproverarci di questa nostra... come dire, disattenzione. In realtà la colpa non è nostra, come no, voi ben sapete, fuso, la colpa è della, tecnologia, certo. E staremo insieme per un po', magari chiacchierando così amabilmente, mandando un po' di musica. Aspettiamo le vostre, i vostri messaggi, le vostre telefonate, se volete farci sentire che ci siete, e magari vi raccontiamo un po' quello che è successo sabato ecco. al buon pastore, sì. Allora adesso noi recuperiamo un attimo la calma, perché ci siamo impanicate un attimo dopo questi minuti di silenzio. Vediamo di recuperare qualche notizia. La vita magari già è drammatica per quello. Vediamo, che... parliamo di vacanze, che ne ma so sì. mo vediamo. Per il momento Moseca. Moseca. Okay? Buon ascolto. Questa musica che normalmente usiamo per i sottofondi è sicuramente bella, però come dire, ci addormentiamo, già siamo sfatte per il caldo. Mettiamo a questo punto qualcosa di un pochettino più movimentato mentre continuiamo affannosamente a cercare qualche annotezia. E affannosamente noi lo sai che con la tecnologia siamo così, ci metteremo pochissimi secondi, certo. per recuperare qualche notizia estiva e magari darvi qualche idea su dove potete andare a fare le vostre vacanze, oppure a incontrare donnule, oppure semplicemente starvene da sole, fare una passeggiata, rilassarvi in piano, rilassante, relaxa. Comunque mandiamo sempre, ammesso che non mi si rompa qualche altra cosa qui nel mixer stasera, che come dire, voglio dire, sto dando il meglio di me, e ascoltiamo Melissa Etheridge con il brano Your Little Secret, che mi sembra un attimino un pochettino più movimentato di quello che stiamo ascoltando ora. Chissà quale sarà sto piccolo segreto. Ma she's not looking, baby. One sugar ain't enough for you. But you're taking out your loans, you're burying your bones before your covers blow. You better take it home. I like the way you look, I know you like me, but I met no one, no harm. You wonderland's a mirror, baby. It's swiftly fading like your charm, but you're stepping out of line. You're spilling all the wine, leaving on the vine, 'cause I can't give you more. We'll be right back. penso che ci siamo svegliati abbastanza ed è sicuramente un po' meglio della canzone che stavamo sentendo di sottofondo. E quindi vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Calcolate che stiamo per andare in ferie anche come CLR, quindi probabilmente questi contatti comincerete ad usarli con la possibilità di trovarci a partire da settembre-ottobre. Per il momento non ci troverete. Oppure potete scriverci, le lettere arrivano comunque sempre, CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre la nostra email, che è contatti@clrbp.it, se volete contattarci, ed il nostro numero per gli SMS, che vi ha ricordato prima Rosina, ma che io ora vi ricordo, è 339-853-6270. Se poi volete riascoltarci o far ascoltare alle vostre amiche qualche nostra trasmissione, potete collegarvi sul blog del martedì, che è mfla.noblog.org, dove anche noi del CLR abbiamo, come dicevo all'inizio, prima che si fondesse la trasmissione di replica che avevamo portato, abbiamo uno spazio, quindi rintracciabile sulla barra a destra, e cliccando su È una calamità si aprirà la pagina dove stiamo caricando tutte le nostre trasmissioni. Qui potete anche lasciarci commenti o suggerimenti. E poi abbiamo anche un profilo Facebook, quindi dovete cercare Contatti CLR Donna, e se vi apparirà il nostro logo lilla col simbolo lesbico, vorrà dire che ci avrete trovato. Allora, ricapitolando, telefono della radio 06 49 17 50 fino alla fine di questa trasmissione. Il nostro cellulare per i messaggi 339 853 6270. Per ascoltare le nostre trasmissioni mfla.noblogs.org, e se siete su Facebook Contatti CLR Donna. E io adesso manderei un'altra bellissima canzone, tanto che visto che stiamo così sul leggero andante questa sera, mi sfogo, do proprio spazio a tutte le canzoni che mi piacciono. Vabbè, quella che abbiamo appena ascoltato era di tutto bella. Rispetto, Melissa è una grande. È vero. E adesso ascoltiamo un gruppo, le Kick la Luna, che è dichiaratamente lesbico, tra le altre cose, così come Melissa. E il brano si intitola Dark Street. Night is cold, wind is blowing, but it's covering. Wanna go home through the street, but there's something inside your head. Every noise is frightening, even the gate is crying in the yard. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the feels? What you gonna do when somebody follows you? you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do when somebody follows you? What you gonna do when he catches you? When he grabs you from behind? Feel frightened, lose your voice, your body becomes still. Totally helpless, totally lost, only a miracle can help. What you gonna do when you walk the street at night? What you gonna do when you feel the fears inside? What you gonna do when somebody follows you? Why can I go without any fear? Why am I not free to move around? Why the sickness some men see? Why the spines instead of there's something which can help. This is just inside yourself. You feel this anger, you've got your pride. Ed eccoci, allora, incredibile ma vero, abbiamo recuperato anche delle notizie da darvi. È vero, sì. Quindi passo la parola a Rosaina. La nostra potentissima organizzazione ci ha consentito di recuperare alcune notizie su un paio di luoghi dove frequentare, dove passare una vacanza in compagnia di altre donne lesbiche. Il primo che vi proponiamo è... diciamo il Les Week. Il Les Week è la settimana lesbica, come ovviamente credo che abbia un'altra valenza, però un'altra organizzazione, un altro tipo di organizzazione, però esatto. Si terrà a Torre del Lago, che ormai da qualche anno è un luogo deputato appunto per le vacanze gay friendly. E quest'anno è uscito adesso da poco il programma ufficiale. Quest'anno appunto si aprirà domenica 22 luglio. Avrete la possibilità, chi andrà insomma a Torre del Lago potrà partecipare a tutte le iniziative, a tutte le attività previste per questa settimana fra donne lesbiche. E l'apertura appunto sarà proprio il 22 luglio sulla spiaggia, e quindi avrete la possibilità di rilassarvi, come è giusto che sia in vacanza, prendere il sole, rimorchiare, fare un po' di lezione di acqua gym, eccetera. Vabbè, ma pensi sempre le stesse cose. Ma l'estate si sa che è un... del resto le donne vanno dalle donne per fare questo principalmente quando sono in vacanza. Poi potete dire che non è così, ma questa è l'amara realtà. O forse non è tanto amara, magari anche un pochino dolce. Ad ogni modo, non pensare sempre male, Caterina, perché in tutta questa settimana non ci sarà soltanto il divertimento sfrenato, i balli, gli aperitivi, le cene, eccetera, eccetera, ma ci sarà anche lo spazio per la musica. Oh, per esempio, vi faccio soltanto alcuni esempi, perché veramente il programma è davvero molto pieno di cose. No, aspetta, aspetta, che non muovere il filo con i fogli, perché sennò va via. Esatto, brava. Eccolo qua, perché qui la tecnologia è sopra. Dicevo appunto, ci sarà anche la musica, ad esempio il mercoledì 25 luglio alla sera ci saranno Donne Lesbiche in Musica. Alessandra Machella presenterà il suo CD, una donna lesbica che visto. Canta le sue canzoni, ma ci sarà anche diversi spazi di discussione. Lo stesso giorno, il 25 luglio, ad esempio, ci sarà F2M, la transizione del femminile al maschile, un'intervista a Gabriele Belli, Maura Chiulli. leggerà Middlesex di Eugenis Geoffrey, che è un testo, non so se tu l'hai letto, è un testo molto interessante. Qui lo definisce audace e spregiudicato sulla vita di un ermafrodito. Effettivamente è molto interessante. No, in questo, non l'ho letto, confesso in questo, di non averlo letto. Sei perdonata per Grazie. Questa cosa, è un libro uscito qualche anno fa, interessante, bella scrittura, bella prosa. Questo è un argomento che in questo ultimo periodo va molto fra le donne lesbiche, mm-hmm. questo discorso sul genere, mm-hmm. sulle transizioni. Noi siamo state molto critiche per tantissimo tempo, per certi versi, ma critiche ovviamente in maniera costruttiva, certo. Però bisogna fare i conti con quello che incontriamo di volta in volta, quindi anche questo ci sarà nella settimana del Les Week, che appunto si terrà dal 23 al 29 luglio, e ci sarà anche lo spazio per appunto cose meno impegnative, molto un po' più divertenti. L'elezione di Miss Gaia 2012, ad esempio, che invece ci sarà il giovedì 26 luglio. Oppure ancora il venerdì, per non dire che le lesbiche fanno soltanto balli e aperitivi, ci sarà un altro dibattito sul coming out e le famiglie. Mm-hmm. E via. Senti, ma vedo che c'hai 7-8 fogli in mano, ma se uno volesse sì. andarselo a vedere con calma, naturalmente basta cliccare? Tu comandi e io ti dico. Grazie. www.lesweek.it. C'è anche un numero di telefono, io ve lo do, non c'è il nominativo, però può sempre tornare utile, 393-0333-999, è anche facile questo numero, io ci ho messo 100 anni per imparare il mio, che in questo momento vi darò in diretta, no, ovviamente non è vero, non è vero. Quindi ci sono anche una serie di ringraziamenti all'organizzazione, a chi ha partecipato, eccetera, eccetera, quindi sono tantissime le sigle, da Arci Lesbica Nazionale, Arci Lesbica Mazzoni dell'Aquila, mm-hmm. salutiamo le compagne dell'Aquila, aquilane, l'Arci Lesbica di Bergamo, le Strulle, le Lele Doc, Gorgius, l'Arci Gay, eccetera, eccetera, insomma una serie di altre realtà di altre politica realtà. E nonna. E questo per quanto riguarda appunto, diciamo, le vacanze in senso stretto. A questo punto io mettiamo manderei un pezzettino di musica. Sì, io ti ho detto poco. Mi sfogherò mandando tutte le cantanti lesbiche che conosco e che mi piacciono, quindi come poteva mancare Skin quando ancora cantava nel gruppo degli Skankanensis, e quindi beccatevi Skin. Cause we don't need who you are. We don't need who you are. E teniamoci Skin come sottofondo. Sottopelle Skin. Che battutona. Il massimo del minimo. E va bene, allora andiamo avanti. Non si sente il tuo microfono. Adesso sì. E allora andiamo ancora avanti un pochino con i luoghi di vacanza. Una mia ex cugina, ex lesbica, una volta andò in questo posto e ce lo descrisse come meraviglioso, bellissimo. Io non ci sono mai stata, ma se vi fate un giretto su internet potrete veramente vedere che il Poggiolo dei Pini è un posto veramente, veramente molto bello. È il famoso posto per noi, no? Un posto pieno di charme, molto accogliente, in cui incontrarsi e ritrovarsi fra donne lesbiche. Ed è tra l'altro, come dire, il risultato di un progetto appunto non commerciale per le donne, ed è un progetto che bisogna far crescere tutte quante insieme. E quindi, se cercate pace, benessere, calore, amicizia, scambio, attenzioni, familiarità, desiderate dedicarvi uno spazio, ma anche i silenzi, godervi comodità, ma anche contenuti, assaporare il bello dei dettagli, se trovate rassicurante essere accolte con cordialità, anche se sole o se alla prima esperienza, allora il Poggiolo dei Pini è veramente il posto che fa per voi. Si tratta appunto di uno spazio in cui poter usufruire di una rete umana, sociale e professionale che appunto le organizzatrici vi invitano e ci invitano a sperimentare e a diffondere. Una rete solidale che sceglie e pensa al femminile, quindi che sceglie e pensa alle donne. Vi diamo i contatti nella speranza appunto che sia possibile fare passare dei giorni di vacanza presso il Poggiolo dei Pini. Quindi la mail, il sito è info@poggiolodeipini.it, oppure potete chiamare presso questi numeri telefonici 0763 838488, oppure 349 29 65 164. Vi ricordiamo che il Poggiolo dei Pini si trova in Umbria, quindi è anche, diciamo, una destinazione abbastanza vicina alla nostra città, e quindi insomma speriamo che voi vi possiate divertire. Io purtroppo devo imbiancare casa quest'estate, quindi andrò al Poggiolo del Soffitto a casa mia. Del soffitto. Io continuo a dare proprio sfogo a tutte le mie scelte musicali, e quindi mando una meravigliosa Tracy Chapman con il brano Talking About a Revolution. Buon ascolto. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me. Generalmente non parlo sulle canzoni, ma qui mi dicono che ho toppato alla grande, perché Talking About a Revolution credo che sia il titolo del l'album. è che il brano che sto mandando in realtà è Sorry. Va bene, allora Caterina è molto sorry di questo. Molto sorry. Ogni tanto ascoltatelo. Say, baby. E mi dispiace sempre riparlare sulla stessa canzone, perché io ho guardato bene la copertina del disco, la canzone si intitola Baby Can I Hold You. Ui Caterina, lo tu fa posso fa scusa. Baby, can I hold eccoci qui di nuovo, abbiamo veramente scherzato e riso stasera, però voi lo sapete che noi siamo allegri ma non troppo, anche nel nostro cazzarare continuo abbiamo degli sprazzi di lucidità, quindi sì, anche vogliamo... perché certe realtà, come dire, non vanno mai in vacanza, ma tipo la violenza sulle donne, quindi. È vero. Ecco. E quindi vogliamo chiudere questa nostra ultima trasmissione di questo ciclo, ovviamente perché l'abbiamo già detto, ritorneremo a settembre. Vogliamo chiudere questa nostra trasmissione con uno scritto che ci ha inviato, non a noi personalmente, anche a noi, Pina Nuzzo, che voi tutte conoscete, quindi non ha bisogno di presentazioni, e un suo intervento datato 25 giugno 2012, quindi proprio ieri. E, il pezzo che Pina ha scritto e che ha mandato in mailing list a tutti i suoi contatti si chiama Il QB lo sa il coniglio. Il QB è il quanto basta. Pina ha ascoltato Luisa Muraro in un suo intervento alla Casa Internazionale delle Donne e ha fatto una riflessione su questo intervento della Muraro e l'ha voluto condividere con tutte quante noi. Noi lo condividiamo anche con voi, magari qualcuna già lo conoscerà, ma qualcun'altra forse lo sente per la prima volta. E quindi Pina Nuzzo, Il QB lo sa il coniglio. L'affermazione di Luisa Muraro, tocca alle donne riformulare la questione della violenza, il 31 maggio alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, presentando il suo ultimo libro Dio è violent, giunge opportuna perché incontra un sentimento diffuso tra le donne. Le sue parole mi hanno colpita prima ancora che leggessi il saggio, perché spingono ad andare oltre una certa soggezione femminile rispetto al tema della violenza, ancora troppo poco indagata. Muraro fa una lettura dei rapporti di forza che regolano la nostra società e afferma: la democrazia così com'è non allontana né contiene la violenza. Sollecita un nuovo racconto del presente che faccia tesoro della pratica femminista. Per la precisione parla di una diagnosi del presente e il termine mi fa pensare automaticamente ad una società malata. Sono tanti i motivi per cui possiamo definire malata la democrazia, non solo quella italiana. Sono malati il rapporto della politica con il potere, è malato l'uso privatistico della cosa pubblica e la crescente corruzione. Sono malate le tante guerre giuste che si combattono nel mondo. Muraro si sofferma sul monopolio statale della forza dicendo che si sente sollecitata a considerare lo stato di guerra come permanente e normale. Sarebbe meglio anzi non usare più quella parola e sostituirla. Le cosiddette guerre sono tante: esercitazioni, laboratori, gare, investimenti, valvola dell'economia, opportunità politiche. E questa è una citazione da pagina 14 dell'appunto del saggio di Luisa Muraro, Dio è violent. Eppure non trovo in questo elenco, prosegue Pina Nuzzo, la guerra cardinale che si combatte da sempre in ogni angolo della terra, anche nel cosiddetto tempo di pace, che non ha bisogno di uno Stato per essere dichiarata, perché la dichiarano giorno dopo giorno singoli maschi contro singole donne. Parlo della violenza contro le donne, che non è equiparabile ad un uso più generale della violenza. La guerra tra i sessi non è menzionata con la necessaria evidenza, benché sia il baluardo su cui Stati e religioni edificano il potere, preservando con azioni e leggi specifiche il rapporto di forza tra i generi a scapito di donne e bambini. È la violenza sessuata a favorire l'insorgere del monopolio o dell'uso della forza, sia in privato che in pubblico, da parte degli uomini. La convivenza quotidiana delle vinte coi vincitori al limite della complicità rafforza l'idea che in una società ci siano i forti e le deboli. Origina rappresentazioni e comportamenti in cui alcuni corpi sono violabili e l'ordine è imposto dai più forti. L'ordine sociale a cui il patriarcato sottopone gli stessi uomini, le donne e i corpi inermi dei bambini è speculare all'ordine che un popolo più forte può imporre ad un altro con la forza, con una guerra giusta, come fanno gli uomini con le donne. Lo faccio mio. Mi metto sul confine tra forza e violenza per essere, come dice Federica Giardini nel suo saggio La forza e la grazia, per una genealogia nel libro collettaneo Sensibili guerriere, di cui è anche curatrice, non solo soggetto di discorso ma anche soggetto consapevole della propria forza, fino alla violenza se necessario. Se sto su questo confine non sono più sulla difensiva. L'essere nata donna diventa un privilegio, la responsabilità verso di me e verso il mio corpo diventano misura nel rapporto con l'altro da me, compresa l'altra, compresi i figli. Certo, un conto è osare un pensiero e un conto è tradurlo in pratica politica. Le due cose non sempre procedono parallelamente, ma sono tutte e due necessarie per un nuovo racconto. Lo sfondo per il mio pensare e per il mio agire futuro rimane la democrazia, pur con tutti i limiti che conosciamo. Non conosco altre forme di convivenza civile che mi facciano immaginare un nuovo patto sociale, il quale comprenda la differenza fra i generi come un diverso punto di partenza per affermare differenti diritti e differenti doveri. Lo dice la storia delle donne che ci hanno preceduto. Loro hanno trovato la misura per un patto sociale che ha anche dato i suoi vantaggi. Noi dobbiamo trovare il QB, il quanto basta, adesso. Possiamo fare come il coniglio della favola di Clarice Lispector. Un coniglio chiuso in gabbia ebbe una grande idea, anche se nessuno crede che i conigli sono capaci di pensare. E loro quindi ci hanno rinunciato, e oggi sono tutti stupidi e felici. La sua idea era di uscire dalla gabbia ogni volta che restava senza mangiare. Ma era difficile. Le sbarre erano vicine, il coniglio era grasso, e per aprire la porta bisognava tirare il chiavistello. Solo gli uomini avevano la forza di farlo. Ma il coniglio scoprì come uscire dalla gabbia, non solo quando aveva fame. Aveva preso gusto alla libertà e cominciò a scappare solo perché gli andava. La favola, continua Pinanuzzo, non rivela come fa il coniglio, dice solo che lo fa. Il come lo sa solo il coniglio. E speriamo che anche noi prima o poi riusciremo a capire come uscire da quella gabbia. Grazie a Pina per questa lucida rappresentazione, per questo scritto. E grazie a tutte voi per averci seguito. Ci salutiamo adesso con l'ultima canzone, chiudiamo in bellezza con Tina Turner e poi seguirà la sigla finale della nostra trasmissione. Faccio un titolo giusto? Private Dancer. Quando è bellino. Private Dancer. Okay. Caterinella. Vado. Thank you. Let me look.